È previsto per oggi pomeriggio alle 14 l'inizio dell'istruttoria pubblica in comune sull'emergenza abitativa e il diritto all'abitare. L'istruttoria aveva raccolto a luglio più di 2.000 firme presentate dal comitato Pensare Urbano. Noi di Radio Città Fucico avevamo seguito la notizia e intervistato Fabio D'Alfonso del comitato, che oggi è nuovamente con noi e che saluto. Ciao a tutti e a tutte. Ciao Fabio, allora oggi appuntamento fondamentale per la città di Bologna, che cosa succederà? Oggi si terrà una grande consultazione pubblica a Palazzo d'Accursio e di fatto quindi verranno finalmente ascoltate tutte quelle realtà, associazioni, sindacati, cooperative, insomma tutta una serie di realtà sociali bolognesi che vedono problema all'interno, diciamo, delle politiche pubbliche abitative di questa città. Di fatto noi sappiamo, insomma, ed è un dato corroborato anche da analisi statistiche, che esiste un problema abitativo a Bologna, che tante persone non riescono a trovare casa e perciò contemporaneamente, insomma, di struttura pubblica in consiglio comunale si terrà una grande tendata per il diritto ad abitare, una grande tendata a cui invitiamo, insomma, a partecipare studenti, lavoratori, comunque chiunque abbia, insomma, un problema a livello abitativo a Bologna. Sappiamo che è una platea sconfinata purtroppo, quindi speriamo oggi di essere in tanti e di riuscire, insomma, a sottoporre le proposte che abbiamo preparato per il comune. E che cosa accadrà secondo te? Si arriverà a una soluzione? Questo purtroppo non posso saperlo. Io so certamente che noi in questi mesi abbiamo lavorato in maniera molto seria, avendoci anche dei contributi, tanti contributi di esperti, di accademici che hanno studiato, diciamo, i meccanismi urbani, che hanno studiato le politiche abitative, tanto, diciamo, i bolognesi quanto internazionali, e che esiste una tendenza, appunto, che è globale, tanto rispetto, diciamo, alla speculazione edilizia che oggi esiste in quel mercato, e anche e soprattutto forse su un tema che per noi perlomeno sarà centrale, su cui vorremmo che ci sia un cambiamento, diciamo, nell'immediato, ovvero il tema delle piattaforme turistiche, quindi Airbnb, Booking, HomeAway, sono tutte piattaforme che restringono di fatto il diritto alla città e alla casa a Bologna e che sottraggono, diciamo, abitazioni, immobili al mercato regolare degli affitti per rimetterlo su quello turistico, ecco. Certo, quindi chiederete che venga fatto qualcosa in questo senso. E Fabio, allora ti chiedo di ricordarci l'appuntamento per oggi. Sì, l'appuntamento per oggi è alle 2 davanti Palazzo d'Accursio per la tendata. Sempre alle 2 inizierà l'istruttoria pubblica in Consiglio Comunale, con alcuni interventi anche da parte dell'amministrazione, l'inizio dell'istruttoria. Insomma, noi invitiamo a partecipare al momento della tendata, poi fino all'esaurimento posti sarà possibile anche, diciamo, presenziare alla discussione. Quindi comunque invitiamo la cittadinanza a partecipare a questo momento che comunque, già, via di come andrà, sarà un momento fondamentale, ecco.